In carrozza scoperta, nella calda opprimente notte di tarda estate, ci recammo a Chaillot. Le stelle e una luna tonda molto gialla erano così vicine che si potevano toccare. E non sembrava una pura coincidenza che la nostra abitazione si trovasse in Rue de la Lune. Quando entrammo, vedemmo che la stanza da pranzo era vivamente illuminata. Lunghe candele ardevano nei pesanti candelabri d'argento che Giuseppina ci aveva donati per le nozze in nome suo e di Napoleone. Una bianca tovaglia di damasco splendeva e sulla mensa trovammo bicchieri da champagne e una coppa con uva, pesche e marzapane. Dal secchio d'argento spuntava una bottiglia di champagne, ma non si vedeva anima viva. Tutta la casa era immersa nel silenzio. «Tutto questo lo ha preparato Maria», dissi io sorridendo. Ma Giambattista replicò subito: «No, è stato Fernando». «Conosco bene il marzapane di Maria», insistetti, e ne presi un pezzo lasciando che mi si sciogliesse sulla lingua. Giambattista osservava pensieroso la bottiglia di champagne. «Se questa notte beviamo ancora, domattina avremo dei tremendi dolori di capo», dichiarò. Io assentii e apersi la porta vetrata che dà sul giardino. C'era nell'aria un profumo di rose mezzo svanite. L'enorme profilo del castagno frondoso pareva incorniciato d'argento. Alle mie spalle Giambattista soffiò sulle lunghe candele. La nostra camera da letto era tutta buia, ma io mi diressi in fretta a tastoni alla finestra, aprii le tende e lasciai entrare i raggi d'argento. Udii che Giambattista era entrato nella camera attigua e vi faceva qualche cosa. Probabilmente mi vuole dare tempo di svestirmi e di mettermi a letto, pensai, e gli fui molto grata di questo riguardo. In gran fretta mi sfilai l'abito, mi accostai al largo letto matrimoniale, trovai la mia camicia da notte che stava spiegata sulla coperta di seta, mi cacciai di furia sotto le coperte e lanciai un grido acutissimo: «Per l'amor del cielo, Desirée, che cosa c'è?» Giambattista stava ritto accanto al letto. «Non so. Qualche cosa mi appunto, mi ha fatto tanto male.» Mi mossi. «Ai, ai, ecco, punge di nuovo!» Giambattista accese una candela. Io mi drizzai e ributtai la coperta. «Rose! Rose, ancora rose, dalle acute spine!» «Oh, che imbecille!» sfuggì detto a Giambattista mentre contemplava le rose, desolato. Incominciai a raccoglierle. Intanto Giambattista teneva sollevata la larga coperta mentre io continuavo a pescare rose nel letto. «È stato probabilmente Ferdinando. Avrà voluto farci una sorpresa.» «Tu fai torto a quel ragazzo. Di sicuro è stata la tua Maria», replicò subito Giambattista. «Delle rose, dico io, delle rose nel letto di un soldato combattente.» Le rose che avevo ripescate nel letto del soldato combattente stavano adesso sul comodino e olezzavano, molli, togliendoci il respiro. A un tratto mi accorsi che Giambattista mi osservava e che io avevo indosso soltanto la camicia da notte. Subito mi misi a letto e dissi: «Ho freddo, dammi la coperta.» Giambattista mi lasciò cadere addosso la coperta. Là sotto faceva un caldo soffocante, ma io mi copersi fin sulla punta del naso. Tenevo gli occhi ben chiusi e non mi accorsi che lui aveva spento la candela. La mattina seguente si assodò che per la prima volta Maria e Fernando si erano trovati d'accordo su qualche cosa. Avevano deliberato di comune intesa di fiorire il nostro letto di rose e, altrettanto d'accordo, si erano scordati delle spine. Giambattista aveva bensì preso 2 mesi di congedo per trascorrere con me indisturbato le prime settimane del nostro matrimonio, ma dal momento in cui giunse a Parigi la notizia della distruzione della nostra flotta da Bukir, dovette recarsi quasi ogni giorno al Palazzo Lussemburgo per prendere parte alle discussioni dei direttori col ministro della guerra. La disfatta di Abukir ha fatto sui nemici della nostra repubblica l'effetto di un segnale. La Russia arma e gli austriaci, che soltanto poco tempo fa avevano presentato le scuse al nostro governo per l'oltraggio arrecato a Vienna alla nostra bandiera, proprio gli austriaci marciano di nuovo e si sono avvicinati ai nostri confini, muovendo dalla Svizzera e dall'Italia settentrionale. Quegli stati italiani sotto la sovranità francese che Napoleone aveva fondato con tanto orgoglio hanno ricevuto gli austriaci a braccia aperte e i nostri generali si trovano ora in ritirata con le truppe in preda al panico. Una di quelle sere Giambattista rincasò più tardi del solito. Mi hanno offerto il comando supremo in Italia. Dovrei fermare le nostre truppe in fuga e tenere almeno la Lombardia, mormorò mentre scendeva da cavallo. Quando terminammo di bere il caffè, era già buio. Lui si prese una candela e molti fogli di carta e incominciò a scrivere. Accetti il comando? Domandai io in quel frattempo. Un terribile sgomento mi afferrò il cuore come una mano gelida e me lo strinse. Giambattista alzò gli occhi, di sfuggita. Sì, se saranno accettate le mie condizioni, sto appunto scrivendo di questo. La sua penna correva veloce sulle pagine bianche. Poi entrammo in casa e Giambattista continuò a scrivere nel suo studio. Gli portai la cena sullo scrittoio, ma egli non vi fece attenzione, scriveva sempre. Alcuni giorni dopo udii dire, per caso, da Giuseppe che Giambattista aveva consegnato a Barrà un eccellente memoriale a riguardo del fronte d'Italia. Quante truppe siano necessarie per tenere quel fronte, per stabilire dei presidi efficienti e per dare battaglia muovendo da quelli, ma i direttori non potevano accettare le condizioni poste da Giambattista. Vennero sì chiamate alle bandiere due classi, ma non c'erano né armi né munizioni per equipaggiare le truppe. Giambattista dichiarò che in queste condizioni egli era costretto a declinare la responsabilità del fronte italiano. Dopodiché il ministro della guerra, Charest, assunse personalmente il comando supremo. 2 settimane dopo, Giambattista rincasò verso le 12. Io stavo appunto aiutando Maria a cuocere delle prugne e gli corsi incontro nel giardino. Puzzo terribilmente di cucina, non baciarmi, lo ammonì. Stiamo cuocendo delle prugne e sono tante che tu potrai avere ogni giorno per tutto l'inverno marmellata di prugne alla prima colazione, gli comunicai. Ma io non ci sarò a mangiare la tua marmellata, disse tranquillamente ed entrò in casa. Fernando, Fernando, preparami l'uniforme da campagna, fammi le valigie da sella come al solito, alle 9 devi essere pronto col mio bagaglio. Di più non potei udire. Giambattista era sparito al piano di sopra. E io stavo ancora come paralizzata sulla porta di casa. Passammo l'intero pomeriggio in giardino, soli. Il sole non era più caldo. Foglie morte coprivano le aiuole. Da un giorno all'altro si era fatto autunno davvero. Io tenevo le mani giunte in grembo e ascoltavo Giambattista che mi parlava. Ogni tanto mi sfuggiva il senso delle sue parole e ascoltavo soltanto il suono della sua voce. Da principio mi parlò come si parla ad un adulto e poi sommesso e delicato come si discorre con un bambino. Lo hai sempre saputo che sarei di nuovo andato alla guerra, non è vero? Hai sposato un ufficiale. Sei una donnina giudiziosa, non devi lasciarti andare, devi avere coraggio. Oh no, non sarò coraggiosa, dissi. Ascoltami. Jourdan ha assunto il comando di 3 armate: l'armata del Danubio, la cosiddetta armata svizzera e l'armata d'osservazione. Massena tenterà con l'armata svizzera di contenere il nemico al confine elvetico. Io comanderò l'armata d'osservazione e marcerò con le mie truppe verso il Reno. Intendo passare il Reno in 2 punti, presso Fort-Louis-Durin e presso Spira e Magonza. Per la conquista e l'occupazione della Renania e dei territori tedeschi adiacenti ho chiesto 3.000 uomini. Me li hanno promessi. Ma il governo non potrà mantenere la sua promessa. Desidere, vado di là dal Reno con un'armata fittizia. E con un'armata fittizia dovrò respingere il nemico. Mi intendi, ragazzina? Non c'è nulla che tu non possa fare, Giambattista, dissi, e sentii di volergli tanto bene che mi vennero le lacrime agli occhi. Tacemmo lungamente. Si fece così buio che non potevo più distinguere i lineamenti di Giambattista. Un urlo di collera di Maria interruppe finalmente il silenzio. Sulla tavola della mia cucina non si puliscono le pistole. Via di qua, e subito. E poi la voce conciliante di Fernando. Lasciamele almeno pulire qui, andrò poi a caricarle di fuori. E Maria. Via con quelle armi da fuoco, ho detto. Adoperi le tue pistole in battaglia? Domandai a Giambattista. Da quando sono generale molto di rado, mi fu risposto dal buio. Fu una notte lunga, lunghissima. Stetti sola per molte ore nel nostro largo letto. E contavo i rintocchi della campana della chiesuola di Chaillot. Sapevo che Giambattista di sotto nel suo studio era curvo sulle carte geografiche e vi tracciava delle linee sottili e vi segnava delle crocette e dei piccoli circoli. Poi mi devo essere addormentata perché improvvisamente gettai un grido ed ebbi l'impressione che fosse accaduto qualche cosa di terribile. Giambattista giaceva accanto a me e dormiva. Il mio grido subitaneo lo svegliò. Che cos'hai? Ho fatto un sogno terribile, mormorai. Che tu parti a cavallo, alla guerra. Domani partirò davvero a cavallo per la guerra, rispose. Deve essere l'abitudine dei molti anni trascorsi al fronte. Giambattista può dormire anche molto sodo, ma appena viene destato è subito completamente sveglio e padrone di sé. Vorrei proprio dirti qualche cosa, dichiarò. Ci ho già pensato qualche volta. Di che cosa ti occupi nella tua giornata, Desiree? Di che cosa mi occupo? Ecco, che cosa intendi dire veramente? Ieri ho aiutato Maria a cuocere le prugne. Ieri l'altro mattina sono stata con Giulia dalla sarta, dalla Berthier, che prima si era rifugiata in Inghilterra con gli aristocratici e che adesso è ritornata. E la settimana scorsa? Ma di che cosa veramente ti occupi, Desiree? Per la verità, di niente di speciale, dichiarai confusa. Egli mi passò il suo braccio sotto la testa e mi strinse a sé. Trovai molto strano di poter appoggiare la guancia sulla sua spalla senza essere graffiata dalle spalline. Desiree, io vorrei che i giorni della mia assenza non ti sembrassero troppo lunghi e per questo ho pensato che tu debba prendere delle lezioni. Delle lezioni? Ma Giambattista non ho più studiato da quando avevo 10 anni. Appunto per questo, rispose lui. Sono andata a scuola 6 anni insieme con Giulia. Abbiamo studiato dalle suore, ma quando ebbi 10 anni tutti i conventi di suore furono soppressi. Mamma avrebbe voluto insegnarci ancora, lei qualche cosa, a me e a Giulia, ma non se n'è fatto nulla. E tu fino a quando sei andato a scuola, Giambattista? Dal mio 11° al mio 13° anno di vita, poi sono stato cacciato da scuola. E perché? Beh, uno dei nostri maestri ha fatto un torto a Fernando. Eh già, e tu hai detto il fatto suo al maestro? No, gli ho dato uno schiaffo. Oh, certo, era l'unica cosa da fare, dissi io, e mi strinsi tutta a lui. Credevo che fossi andato a scuola per tutta la vita perché sei così istruito e tutti i libri che leggi. Da principio ho cercato soltanto di riguadagnare il tempo perduto. Poi ho imparato bene le cose che si insegnano nelle scuole per gli ufficiali, ma adesso voglio approfondirmi in molti altri rami. Per esempio, quando si amministra un territorio occupato bisogna avere un'idea di che cosa sia la politica economica, la giurisprudenza e la... Ma non occorre che tu ti occupi di queste cose, ragazzina mia. Ho pensato che tu dovresti prendere lezioni di musica e di contegno. Lezioni di contegno? Vuoi dire di ballo? Ma io so ballare. A Marsiglia ho sempre ballato sulla piazza del municipio per la festa della Bastiglia. No. Non voglio dire proprio lezioni di ballo, disse lui. Una volta le ragazze giovani nei collegi eleganti imparavano una quantità di cose, per esempio a fare gli inchini, per esempio il gesto della mano con cui una padrona di casa invita i suoi ospiti a passare da una stanza in un'altra. Giambattista, dissi io, noi non abbiamo che la stanza da pranzo. Se per caso uno dei nostri ospiti dovesse passare dalla stanza da pranzo nel tuo studio, non credo che dovrei fare per questo dei gesti straordinari. Se diverrò governatore militare in qualche paese, tu sarai allora la prima signora del luogo e dovrai ricevere nei tuoi salotti una quantità di dignitari. Salotti? Ero sdegnata. Giambattista, parli dunque di nuovo di un castello? E così dicendo gli addentai la spalla ridendo. Ahi, smettila! Urlò Giambattista. Io lasciai la presa. Non puoi immaginarti lo zelo con cui, quando ero a Vienna, gli aristocratici austriaci e i diplomatici esteri aspettavano soltanto il momento nel quale l'ambasciatore della nostra repubblica avrebbe fatto una brutta figura. Devono addirittura aver pregato Dio perché io mangiassi il pesce col coltello. Il contegno deve essere irreprensibile, Desiree. È un dovere che abbiamo verso la nostra Repubblica. E dopo una pausa, sarebbe tanto bello che tu imparassi a suonare il pianoforte, Desiree. No, non credo che sarebbe bello. Ma tu hai orecchio, disse lui insistendo. Non lo so, la musica mi piace immensamente. Giulia suona il pianoforte, ma è una pena udirla, è un delitto suonare così male il pianoforte. Beh, vorrei che tu prendessi lezioni di piano e che studiassi anche un pochino di canto, disse lui con un tono che sembrava non ammettere altre obiezioni. Già ti ho raccontato del mio amico, il virtuoso violinista Rodolfo Kreutzer. Kreutzer mi ha accompagnato a Vienna quando vi fui come ambasciatore e mi ha condotto all'ambasciata un compositore viennese. Aspetta, si chiamava Beethoven. Monsieur Beethoven e Kreutzer hanno fatto musica da me per molte sere e io ho rimpianto di non aver imparato da ragazzo a suonare qualche strumento, ma... e rise di colpo rumorosamente. Ma mia madre era già felice quando aveva abbastanza denaro per comprarmi un paio di brache nuove per la festa. Purtroppo si rifece subito serio. Desidero assolutamente che tu prenda lezioni di musica. Ieri ho pregato Kreutzer di scrivermi l'indirizzo di un maestro. Troverai il biglietto nel cassetto del mio scrittoio. Incomincia a prendere lezioni e scrivimi, informandomi regolarmente dei tuoi progressi. Di nuovo, una mano fredda mi serrò il cuore. Scrivimi regolarmente. Ha detto così. Scrivimi, lettere. Non ci restano che lettere. Un mattino grigio-blu filtrava attraverso le tende. Io fissavo le tende con gli occhi spalancati. Già ne potevo ora distinguere chiaramente il colore azzurro. A poco cominciarono a disegnarsi i contorni dei trofei di fiori che vi sono intessuti. Giambattista invece si era riaddormentato. Un pugno rimbombò contro il nostro uscio. Ai suoi comandi, le 5:30, signor generale. Era Fernando. Mezz'ora dopo sedevamo giù alla tavola della prima colazione e per la prima volta vidi Giambattista in uniforme da campagna. Né decorazioni, né medaglie, né sciarpe rompevano il severo colore turchino. E ancora non mi ero portata la tazza alla bocca che incominciò il tremendo commiato. Dei cavalli nitrirono. Venne bussato alla porta di casa, si udirono molte voci maschili, degli speroni tintinnarono. Fernando spalancò la porta. Ai suoi comandi, i signori ufficiali sono qui. Avanti, disse Giambattista, e la nostra stanza si riempì di 10 o 12 ufficiali a me sconosciuti che si piantarono sull'attenti con un gran rumore di sciabole strascinate. Giambattista fece un rapido gesto con la mano. I signori del mio stato maggiore. Io sorrisi macchinalmente. Mia moglie è molto lieta di fare la vostra conoscenza, dichiarò cortesemente Giambattista e si levò in piedi. Sono pronto. Possiamo andare, signori ufficiali. E rivolto a me, addio, mia piccola ragazzina. Scrivi regolarmente. Il Ministero della Guerra mi manderà le tue lettere per corriere speciale. State bene, Maria. Prendetevi cura di Madame. Già era fuori della porta e con lui scomparvero i suoi ufficiali con le loro sciabole fragorose. Avrei voluto baciarlo ancora una volta, pensai. Ad un tratto il crepuscolare grigiore della stanza incominciò a girarmi tutto intorno. Le fiamme gialle delle candele sulla tavola palpitarono stranamente, vacillarono, vacillarono finché di colpo mi si fece buio davanti agli occhi. Quando mi riebbi mi trovai sul letto. C'era un disgustoso odore d'aceto e vicinissimo sopra di me incombeva il viso di Maria. Allontanai dalla mia fronte il pannolino dal disgustoso odore. Avrei voluto baciarlo ancora una volta, Maria, sai, per commiato. Scheo di Parigi, notte di San Silvestro, tra gli anni VI e VII. Incomincia l'ultimo atto del XVIII secolo. Ora seguo qui nello studio di Giambattista e ho spinto da una parte i grossi libri e le carte geografiche per fare sullo scrittoio un po' di posto al mio diario. Dalla strada giungono voci liete, risa e canti di gente un po' brilla, perché poi tutti sono di buon umore quando incomincio un anno nuovo. Io mi sento triste, immensamente triste. Prima di tutto ho bisticciato con Giambattista per lettera e poi provo tanta angoscia per questo nuovo anno. Oh, il giorno seguente a quello della partenza di Giambattista sono andata in carrozza a trovare il maestro di musica che ci è stato raccomandato da questo Rodolfo Kreutzer, è un ometto secco, allampanato, il quale abita una camera male in arnese nel quartiere latino e che ne ha fregiate le pareti di polverose corone d'alloro. questo ometto dalla bocca graveolente. Mi ha detto subito che egli è costretto a dar lezioni per via della gotta, che lo ha preso alle dita, altrimenti si consacrerebbe tutto ai suoi concerti. E mi domandò se potevo anticipargli il compenso di 12 lezioni. Pagai e dovetti sedermi a un pianoforte e imparare come si chiamano le note e quale tasto corrisponde a ciascuna nota. E mentre tornavo a casa dopo la prima lezione mi vennero in carrozza dei capogiri e temetti di svenire un'altra volta. Da allora mi faccio condurre 2 volte la settimana al quartiere latino e ho anche preso in affitto un pianoforte per esercitarmi in casa. Giambattista vorrebbe che io comprassi il pianoforte, ma a me sembra che sarebbero danari spesi male. Nel Moniteur leggo continuamente che Giambattista sta compiendo una vittoriosa avanzata in Germania. Ma lui, sebbene scriva tutti i giorni, non mi parla mai nelle sue lettere della guerra e invece non fa che domandarmi a che punto siano le mie lezioni. Io sono una pessima scrittrice di lettere e così le mie missive sono sempre troppo brevi e non vi è mai in esse proprio ciò che io gli vorrei sempre dire, che senza di lui mi sento tanto infelice e che ho una tremenda nostalgia di lui. Invece lui mi scrive come un vecchio zio. Insiste nel rilevare quanto sia necessario che io continui i miei studi e quando si è accorto che io non avevo affatto l'intenzione di incominciare le lezioni di ballo e di contegno, mi ha scritto testualmente: «Sebbene io desideri ardentemente di rivederti, mi importa anche molto che tu abbia a completare la tua educazione. Certe cognizioni come la musica e la danza sono indispensabili. Ti raccomando di prendere alcune lezioni da Monsieur Montel. Mi accorgo che sto dandoti troppi buoni consigli e perciò chiudo, baciandoti sulla bocca. Il tuo GB Bernadotte che ti vuole bene». È questa una lettera di un innamorato. Mi sono arrabbiata al punto che nella mia lettera seguente non ho neppure accennato ai suoi consigli e neppure gli ho detto che ora sto veramente prendendo delle lezioni da questo Monsieur Montel. Dio sa chi gli ha raccomandato questo profumato danzatore di balletti. Questo incrocio di un arcivescovo con una ballerina che mi fa inchinare con leggiadra grazia davanti ad invisibili autorità e che intanto mi saltella tutti intorno per accertarsi se riesco graziosa anche vista da tergo quando muovo incontro ad una altrettanto invisibile signora anziana per accompagnarla ad un, grazie al cielo, visibile sofà. Si direbbe che Monsieur Montel mi stia preparando per un ricevimento ad una corte reale, proprio me, repubblicana convinta, che tutt'al più in casa di Giuseppe mi sono trovata a pranzo con il capo dello Stato Barrà, del quale si dice che cerchi ogni tanto di dare qualche pizzicotto alle ragazzine. Visto che non scrivevo nulla delle mie lezioni di buon costume e di contegno, un corriere mi recapitò questa lettera. «Tu non accenni ai tuoi progressi nella danza, nella musica e nelle altre discipline». Poiché sono così lontano, sarò lieto se la mia piccola amica trarrà profitto dalle sue lezioni. Il tuo G.B. Bernadotte. Ricevetti questa lettera una mattina che mi sentivo più che mai disperata e non avevo affatto voglia di alzarmi. Me ne stavo sola nel largo letto matrimoniale e non ero in casa né per Giulia, che era venuta a farmi visita, né per me stessa, né per i miei pensieri. E giunse in quel momento la lettera. Sulla carta che Giambattista adopera, anche per le sue lettere private, è stampato République Française e più sotto Liberté et Égalité. Io digrignai i denti. Perché dovrei io, la figlia di un bravo mercante di sete di Marsiglia, essere educata proprio come una grandama? Giambattista è probabilmente un gran generale e uno degli uomini dell'avvenire, ma anche lui è di famiglia molto modesta e soprattutto nella Repubblica tutti i cittadini sono uguali e io non voglio assolutamente frequentare ceti nei quali si menino attorno i propri ospiti con dei gesti affettati. Così mi alzai e gli scrissi una lunga lettera furiosa. E mentre scrivevo piangevo e feci anche delle macchie di inchiostro. Dissi che non avevo sposato un vecchio moralista, ma un uomo dal quale credevo di essere compresa e che tutti e due, l'uomo dal fiato cattivo che mi fa fare gli esercizi di digitazione, e con lui, questo profumato Monsieur Montel, io li mandavo a quel paese, al diavolo, e che ne avevo abbastanza, abbastanza. E poi suggellai in gran fretta la lettera senza rileggerla, e dissi a Maria di portarla con una vettura al Ministero della Guerra, perché fosse subito trasmessa al quartiere generale del generale Bernadotte. Il giorno appresso, naturalmente, avevo timore che Giambattista potesse andare in collera sul serio. Mi feci condurre alla lezione da Montel e poi sedetti al piano e feci esercizi di scale e cercai di suonare il piccolo minuetto di Mozart, col quale voglio fare una sorpresa a Giambattista quando tornerà. Dentro di me faceva torbido e grigio, proprio come nel nostro giardino col suo castagno sfrondato. Passò un'intera settimana e finalmente arrivò la risposta di Giambattista. Non sono ancora riuscito a capire, cara Desirée, che cosa tu abbia potuto trovare di offensivo nella mia ultima lettera. Non ho affatto l'intenzione di trattarti come una bambina, ma come una moglie amorosa e intelligente. Tutto quello che ti ho detto doveva soltanto convincerti. E poi riprendeva a parlare del compimento della mia educazione e mi annunciava in tono patetico che le cognizioni si conquistano con dura e costante fatica. Da ultimo mi diceva: scrivimi e dimmi che mi ami. A questa lettera non ho finora risposto, perché è accaduto qualche cosa che mi impedisce di scrivere altre lettere. Nel pomeriggio di ieri, come tanto spesso, me ne stavo nello studio di Giambattista e facevo girare il mappamondo e mi meravigliavo che ci siano tanti paesi e parti della terra di cui non so proprio nulla, quando entrò Maria portandomi una tazza di brodo. Bevi questo, devi cercare di nutrirti con cibi rinforzanti, mi disse. Perché? Io sto bene, sto perfino ingrassando. L'abito di seta gialla mi tira già sulla vita, dissi io e respinsi la tazza. E per di più le minestre grasse mi ripugnano. Maria si avviò per uscire. Devi sforzarti di mangiare e sai molto bene perché. Io scattai. Perché? Maria sorrise. Poi mi si avvicinò e fece un gesto come per toccarmi. Lo sai anche tu, non è vero? Ma io la respinsi e gridai: no, non lo so. E non è neppure vero, non è vero di certo. Poi corsi di sopra in camera da letto, chiusi l'uscio a chiave e mi buttai sul letto. Mi premetti le mani sul grembo. Un piccolo nuovo essere umano dentro di me. Oh, questo proprio non ci voleva. Mio piccolo uomo, pensavo intanto, tu, particella del mio io. Per una frazione di secondo mi sentii veramente felice, ma poi mi rimproverai. Mio piccolo uomo. No. Non è così. Nessun essere umano è di un altro. E perché il mio piccolo uomo dovrebbe sempre comprendermi? Io trovo che anche le idee di mamma sono antiquate. Quante volte non ricorro anch'io come la mamma a delle piccole necessarie bugie? E anche mio figlio farà esattamente lo stesso con me. Mi dirà bugie e mi troverà antiquate e si arrabbierà con me. Io non ti ho chiamato piccolo nemico dentro di me, pensavo stizzita. Maria bussò alla porta, ma io non le apersi. Poi la udii ridiscendere in cucina. Dopo un po' tornò a bussare e finalmente la lasciai entrare. Ti ho fatto scaldare la minestra, mi disse. Senti, Maria, allora, quando aspettavi il tuo piccolo Pierre, eri proprio felice? Maria sedette sul letto e io mi distesi di nuovo. No, naturalmente no. Io non ero sposata, disse Maria. Ho sentito dire che, voglio dire, quando non si vogliono avere dei bambini si può. Insomma, che ci sarebbero delle donne che aiutano a. Dissi esitante. Maria mi fissò come per scrutare il mio pensiero. Certo, disse lentamente. Anch'io l'ho sentito dire. Mia sorella è stata da una di queste donne. Ha già tanti bambini e non voleva averne degli altri, ma dopo è stata tanto malata e adesso non può più avere bambini. E non potrà neppure essere veramente sana. Ma le grandi signore, come per esempio la Tayenne o Madame Giuseppina, quelle conoscono certamente qualche vero medico che potrebbe venire in aiuto. Ma naturalmente è proibito. Fece una pausa. Io giacevo con gli occhi chiusi e mi stringevo il ventre e vi premevo sulle mani. Era piatto, assolutamente piatto. Udii che Maria diceva: allora tu vorresti farti togliere il bambino? Oh no! Avevo gridato di no senza riflettere. Maria si levò in piedi e parve molto contenta. Vieni, mangia la tua minestra, disse con dolcezza, e poi mettiti al tavolino e scrivi al generale. Bernadotte sarà molto contento. Io scossi il capo. No, questo non posso scriverglielo. Vorrei poterglielo dire. Poi bevi il mio brodo, mi vestii e mi feci condurre da Monsieur Montel e imparai una nuova contraddanza. Questa mattina ho avuto una grossa sorpresa. Giuseppina è venuta a farmi visita. Finora non era stata da me che due volte, sempre insieme con Giulia e Giuseppe, ma nulla dava a vedere che la sua improvvisa visita fosse una cosa straordinaria. Oh, era vestita meravigliosamente, un abito bianco di lana leggera, un piccolo attillatissimo corpetto d'ermellino e un alto cappello nero alla postiglione con una piuma di struzzo bianca. Ma il grigio mattino invernale non la favoriva. Quando rideva si scorgevano le molte piccole rughe intorno ai suoi occhi e le labbra sembravano molto aride perché il belletto rosa vi aderiva in modo assai ineguale. Ho voluto vedere come ve la passate nel vostro stato di vedovanza forzata, madame, disse e soggiunse: Noi vedove forzate dobbiamo far lega, non è vero? A noi vedove forzate, Maria servì della cioccolata calda ed io domandai cortesemente: Avete regolarmente notizie del generale Bonaparte, madame? Irregolarmente, disse lei. Bonaparte ha perduto la sua flotta e gli inglesi bloccano le comunicazioni. Ogni tanto qualche piccola nave riesce a passare. Queste sue parole non ebbero risposta. Lo sguardo di Giuseppina si posò sul pianoforte. Giulia mi ha raccontato che adesso state prendendo lezioni di musica, osservò. Io annuì. E anche voi suonate? Oh sì, naturalmente, da quando avevo 6 anni, disse la ex contessa. Io prendo anche lezioni di ballo da Montel, annunciai. Non voglio far sfigurare il mio Bernadotte. Non è una cosa semplice essere sposate con un generale. Voglio dire con un generale che si trovi al fronte, disse Giuseppina mentre sgranocchiava un pasticcino di marzapane. Sorgono facilmente dei malintesi. Lo sa Dio se è vero, pensai, e mi venne in mente il mio stupido carteggio con Giambattista. Non si può scrivere tutto quello che si vorrebbe, confessai. Proprio così, esclamò tosto Giuseppina, e per giunta degli estranei si mischiano in cose che non li riguardano e scrivono delle lettere malevole. Terminò in fretta di bere la sua cioccolata. Giuseppe, per esempio, il nostro comune cognato Giuseppe. Trasse fuori un fazzoletto di pizzo e si toccò leggermente le labbra. Giuseppe vuol scrivere a Bonaparte che ieri è venuto a farmi visita alla Malmaison e che vi ha trovato Hippolyte Charles. Vi ricordate certo di Hippolyte, quel simpatico fornitore militare, e che dunque vi ha trovato Hippolyte in veste da camera. È una sciocchezza simile, vuol farla sapere a Bonaparte, che in questo momento ha ben altro a cui pensare. Ma perché Monsieur Charles va in giro per la Malmaison in veste da camera? Domandai io, e veramente non riuscivo a capire come mai egli non avesse scelto per le sue visite un altro indumento. Oh, erano appena le 9 del mattino, confessò Giuseppina, e lui non aveva ancora terminato la sua toilette. Giuseppe è arrivato così all'improvviso. A questo non seppi davvero che cosa rispondere. Ho bisogno di compagnia. Non posso star sola per tanto tempo. Non sono stata mai sola in tutta la mia vita, disse Giuseppina. E gli occhi le si inumidirono. E poiché noi vedove forzate dobbiamo pure essere unite contro il nostro cognato comune, ho pensato che voi forse potreste parlarne a vostra sorella. Giulia potrebbe dissuadere Giuseppe dal proposito di scrivere a Bonaparte. Ah. Di questo dunque si trattava. Ecco che cosa Giuseppina voleva da me. Giulia non ha alcuna influenza sulle azioni di Giuseppe, risposi io, sapendo di dire la verità. Gli occhi di Giuseppina erano quelli di un bambino spaurito. Allora non mi volete aiutare? Questa sera andrò a una piccola cena di Capodanno in casa di Giuseppe e parlerò con Giulia, dissi, ma non dovete farci molto conto, madame. Giuseppina balzò in piedi, subito sollevata. Oh, lo sapevo che non mi avreste abbandonata. E perché non vi vedo mai da Teresa Tallien? 2 settimane fa ha messo al mondo un piccolo ouvrard, dovreste vedere il bambino. E quando già stava sulla soglia, non vi annoiate qui a Parigi, madame? Dobbiamo andare presto insieme a teatro e vi prego, vogliate dire a vostra sorella che Giuseppe naturalmente può scrivere al mio Bonaparte tutto quello che crede. Soltanto quella faccenda della veste da camera dovrebbe lasciarla da parte.